molto forti. E tutto ruota intorno all'ombelico, possiamo dire così? Il tutto ruota all'ombelico e nei punti leggermente sotto, ecco, diciamo così, 2 centimetri sotto l'ombelico, da destra verso sinistra. 5 minuti di massaggio, leggero, sì. Costante. È indicatissimo anche per i padri, perché ad esempio anche il padre, che così il bambino prende anche coscienza da un punto di vista proprio tattile, anche dalla presenza del padre, non solo della madre. Questa è una buona indicazione, quindi alle nostre ascoltatrici diciamo insegnate questi semplici massaggi che il dottor Crepaldi ci ha spiegato anche al papà del vostro bambino e mettetelo al lavoro. Dottor Crepaldi, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata. Altrettanto, arrivederci a tutti. Insalata, istruzioni per l'uso. Parliamo di insalate in busta, molto pratiche, poco convenienti, ma si sa, tutto quello che fa risparmiare tempo costa caro. Allora cerchiamo di scegliere bene la nostra insalata e consumarla al meglio. In linea con noi abbiamo il professor Marco Dalla Rosa, ordinario di tecnologie alimentari all'Università degli Studi di Bologna presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti. Professor Dalla Rosa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta, buongiorno. Professore, il vantaggio dell'insalata in busta è che è già lavata, quindi pronta per mettere in tavola. Ma nutrizionalmente è uguale all'insalata non lavata? Dunque, l'insalata quando si recide dal gambo, qui infissa in terra, comincia dei fenomeni, comincia ad avere dei fenomeni di degradazione. Certo. Soprattutto nelle zone di taglio. Per cui più tagliamo il prodotto e più questi effetti biochimici vengono accelerati e quindi tutti i meccanismi che portano poi alla degradazione del prodotto. E il processo industriale che porta all'ottenimento dell'insalata in busta cerca di rallentare tutti questi fenomeni. Quindi sia la fase di taglio, sia la fase di lavaggio e poi la fase di asciugatura sono fatti in modo che il fenomeno della degradazione, per cui anche la riduzione, ad esempio, quantomeno delle vitamine o dei componenti che sono più ossidabili, vengono per quantomeno rallentate. C'è da dire che l'insalata in busta, che dura qualche giorno, si comporta molto meglio di quello che noi riusciremo a fare tagliando l'insalata che noi compriamo intera e lasciandola nel nostro frigorifero. Ecco, questo volevo dire. Ecco, allora professore, questo è chiaro. Andiamo a comprarla allora, questa insalata in busta. Consigli, istruzioni per l'acquisto. Vediamo, naturalmente, è ovvio, questo lo sappiamo, cerchiamo di comprarla guardando la data di scadenza. Più è lontana, meglio è. Ma ci sono altri trucchetti, professore, oltre... I trucchi sono quelli di tenere un po' controllata quella che è l'abitudine alla gestione delle temperature del nostro negoziante o della nostra catena di distribuzione, perché sono prodotti che sono estremamente sensibili al mantenimento della catena, cosiddetta catena del freddo. Sì. Quindi se l'insalata è accatastata, cioè i bule buste sono accatastate al di sopra della linea, diciamo, dell'apparecchio frigorifero, non va certamente bene. Cerchiamo di trovare o di prendere i sacchetti che stanno in più il basso possibile, se il sistema di refrigerazione è uno di questi sistemi a pozzetto oppure un display orizzontale o quasi orizzontale. Quindi quelle più in fondo. Esatto, più in fondo o più in basso, perché sono estremamente sensibili alla temperatura. Ci sono poi altri fenomeni, oltre a quelli biochimici, che sono quelli relativi alla presenza di microrganismi che sono naturalmente presenti e che anche questi sono estremamente sensibili alle temperature. Per cui la temperatura dovrebbe essere veramente molto bassa, attorno ai 4-5 gradi al massimo. Noi, professore, con la nostra insalata che abbiamo scelto tra quelle più in fondo, torniamo a casa, soprattutto la data di scadenza è assolutamente importante da tenere d'occhio, torniamo a casa e la possiamo subito mettere nell'insalatiera o le diamo una sciacquatina? Io la sciacquo sempre. Ecco, quello dello sciacquare non dovrebbe essere importante, nel senso che è una precauzione in più. Però l'insalata si conserva abbastanza bene, se vogliamo mangiarla subito e vogliamo fare anche questo rito del lavaggio e dell'asciugatura che ci riporta a quello che faremo normalmente, possiamo anche farlo. però in realtà i lavaggi che vengono effettuati e poi i sistemi di imbustamento per l'imbustamento sono igienicamente sicuri, soprattutto per le buone aziende di lavorazione. Ecco, l'altra indicazione che non abbiamo dato è quella di comprare le buste in funzione della quantità di prodotto che noi useremo. Certo. Cioè non comprare le buste troppo grandi che poi debbano rimanere all'interno del frigorifero per molto tempo. Bravo, perché quando noi dobbiamo conservare la nostra insalata che è già lavata, dobbiamo seguire maggiore attenzione, perché è un prodotto che è fresco ma già lavato, quindi conservato. E quindi poi nel momento in cui apriamo la busta, l'effetto residuo ad esempio dei gas che vengono immessi, le miscele di gas che vengono immessi per rallentare tutti i fenomeni, poi tornano. Svanisce, come a mezzanotte la scarpetta di Cenerentola. Dove la teniamo l'insalata? Dunque, l'insalata va tenuta in un posto freddo del frigorifero, sì? Troppo vicino agli scambiatori di calore che sono in fondo al frigorifero, dove lì potrebbe ghiacciare, allora sì? Appunto, l'insalata si danneggia completamente, perché teniamo conto che oltre agli aspetti nutrizionali relativi alle vitamine o composti che abbiamo detto possono essere ossidabili o degradabili, comunque abbiamo tutta una serie di altri vantaggi dovuti alle fibre, dovuti a composti che invece non si degradano nel tempo, ma se l'insalata rimane integra, se invece l'insalata congela e perde le sue caratteristiche, è chiaro che anche in quel caso li perdiamo. E poi devo dire una cosa, un controllo delle temperature del proprio frigorifero. Si può utilizzare dei piccoli termometri, anche quelli ambientali, che vengono usati, anche digitali, che costano poche decine di euro, che possono essere usati anche per controllare la temperatura, che so, dell'automobile o del camper o della casa, che si vendono in tutti i posti, e collocarli in frigorifero. Colocarli in frigorifero e magari fare un giochino, si può fare anche con, eventualmente se uno ha dei figli, farlo con i propri figli, e fare una mappatura del frigorifero, partendo dal basso e poi arrivando verso l'alto, tutti i ripiani, capire qual è la temperatura media, e poi capire poi lasciarli in un posto intermedio e capire nel corso del giorno, in funzione delle aperture, come la temperatura del frigorifero. Ma lei è un professore simpatico, ci fa anche giocare, ma ci dica la temperatura ideale del nostro frigorifero. La temperatura non dovrebbe superare 5-6 gradi. Ok, quindi termometro, siamo partiti dall'insalata per finire al termometro, ma il termometro ci aiuta a conservare bene l'insalata e non solo. Professor Dalla Rosa, ci sentiamo presto, intanto buona giornata. Grazie anche a voi e saluto tutti. Grazie. Arrivederci, grazie. Un attimo di pausa poi per andare a sentire gli aggiornamenti del traffico e poi torniamo di nuovo qui appassionatamente insieme per occuparci del nostro benessere, in modo particolare di quello dei nostri piedi. A tra poco. Essere e benessere. Camminano, corrono, saltano, i nostri piedi ne vedono di tutti i colori, reggono tutti i giorni il peso del nostro corpo, talvolta non è proprio un peso piuma, in più ci aiutano nel movimento. Adesso anche loro, come noi, soffrono il freddo e questo è un periodo quindi abbastanza difficile per loro. Per sapere come occuparsi quindi egregiamente dei nostri piedi è tornato a trovarci il professor Luca Avagnina, che è presidente della Società Italiana di Podologia. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Senta, professore, giochi di parole a parte, mettiamo i nostri piedi nelle sue mani. Partiamo dal pediluvio. Ecco, allora, il pediluvio è stata una storica tradizione nel campo del piede. Io non lo né condanno né lo porto agli altari e agli onori, nel senso che è sempre un piacere fare un pediluvio, non va considerato una terapia di qualche tipo. Possiamo in questo periodo fare un gioco fisico, cioè utilizzare il caldo e il freddo innanzitutto, se vogliamo fare dei giochi con l'acqua per i nostri piedi, per creare una ginnastica vascolare che permetta ai nostri piedi di ottimizzare la loro capacità di resistere al freddo. Quindi due catini, uno con acqua e chiusura dei capillari. Senta professore, quindi due catini, uno con l'acqua calda, uno con l'acqua fredda, alterniamo. Ecco, giusto. Attenzione che se uno ha i piedi che tendono a essere caldi di natura, devi iniziare e finire sempre con la fredda. Se hai i piedi invece freddi, cosa più frequente in questa stagione, iniziare e finire sempre con la calda. Questo è un elemento fondamentale. Stavo pensando ai piedi di chi fa sci di fondo, a chi in questi, approfittando di queste abbondanti nevicate, insomma, va sulle piste. Possiamo regalare una coccola anche agli sciatori? Assolutamente. Allora, il problema più grosso di chi va in montagna sono proprio i piedi freddi, perché se c'è la caldi difficilmente ha problemi comunque in montagna. Sì. La gente non si rende conto che il freddo ai piedi è legato esclusivamente all'acqua che ristagna nei piedi per un eccesso di sudorazione, legato un po' alla calzatura, cioè allo scarpone che impedisce la traspirazione, un po' a proprie caratteristiche individuali. Per cui il primo consiglio che io do agli atleti e a coloro che fanno attività fisica di questo tipo è di usare calzini tecnici, cioè andare a spendere nei negozi di articoli sportivi per quelle calze che hanno la capacità di estrarre, tra virgolette, l'acqua che si forma attorno alla pelle e buttarla fuori mantenendo il piede asciutto. Sì, conviene questo. Cioè, questo conviene spendere un po' di euro in più per garantirsi un calzino tecnico. Sì, perché uno pensa allo sci, allo scarpone e non pensa invece a questo piccolo particolare tecnico che, mantenendo il piede secco, sì, permette di evitare questi problemi. Esistono delle fibre speciali in fili d'argento, sì, sono tra l'altro anche antibatteriche, eccetera, e che aiutano in queste termostate, ce n'è una che si chiama, ad esempio, mi ricordo così a mente, e che aiutano questo fattore. A questo va associato, ad esempio, dei prodotti farmacologici mirati che aiutano a mantenere il piede caldo. Ricordo fra tutti la capsicina, sì, che è contenuta in alcune creme di varie aziende, che messa preventivamente prima di iniziare l'attività richiama sangue in periferia, sì, e mantiene quindi la temperatura locale. Professore, io la ringrazio, ci sentiamo presto, buona giornata. Grazie a voi e buone camminate e buone attività sportive con i vostri piedi. Ricordatevi che il podologo vi può aiutare in ogni situazione. Grazie, arrivederci. Dai piedi alle mani, adesso andiamo in dispensa per imparare a prepararci delle ricette per la cura delle nostre mani. Per questo motivo è tornata a trovarci Chiara Zambianchi, naturopata, esperta in discipline bionaturali. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Allora, le ricettine che ci ha dato l'altra volta per i nostri capelli hanno avuto grandissimo successo, il che dimostra, sì, che prepararci, le cose da, così, con gli ingredienti che troviamo in cucina, nella dispensa, magari sul balcone, ci dà grande soddisfazione. Allora, abbiamo pensato di occuparci delle nostre mani. Sì, bene. Allora, potremmo consigliare alle nostre radioascoltatrici una crema da fare in casa, molto semplice, emolliente, al miele. Bene. Dunque, quindi prendiamo, misceliamo 2 cucchiai da tavola di miele con un rosso d'uovo. Sì. Si aggiunge lentamente un cucchiaio di mandorle dolci, poi prendiamo 3 mandorle amare frullate ed infine 5 gocce di olio essenziale di bergamotto, questa essenza molto agrumata. Questa crema va conservata in frigorifero e rinnovata ogni settimana, quindi viene utilizzata proprio per le mani, le mani screpolate, soprattutto in questo periodo. Se invece vogliamo conservare questa crema per più tempo, sì, dobbiamo utilizzare un olio essenziale al posto dell'olio di bergamotto, sì, un olio essenziale di benzoino, che è una resina. Che si trova in si trova in erboristeria, in farmacia, dove lo compriamo? Sia in erboristeria che in farmacia. È una resina che funge proprio da conservante naturale. E quindi la nostra crema dura di più. Esatto. Senta, intanto che ci occupiamo delle mani, mi dà anche una ricettina per le unghie? Sì, allora potremmo consigliare una ricetta molto semplice, spennellare proprio le unghie con una miscela di olio d'oliva e 3 gocce di olio essenziale di limone. Se metto il bergamotto, che l'ho già usato per quello della mano, è un'essenza un pochino più agrumata. Va bene lo stesso, così sì, ne compro uno solo, risparmio anche. Della stessa famiglia, esatto. Benissimo. Oppure immergere sempre i polpastelli, sempre in una tazzina con questa miscela. Ovviamente vanno massaggiate sia le unghie che i polpastelli. per lasciare assorbire questo impacco. Voilà, allora le mani e le unghie sono a posto e le ricette, se volete, le potete trovare come sempre sulla pagina di Essere Benessere. Io la saluto e la ringrazio, spero che venga presto a trovarci con nuove ricettine, dottoressa Zambianchi. Grazie a voi. Va bene, allora le lasciamo il tempo di prepararne nuove. Benissimo. Buonissima giornata, grazie. Grazie anche a voi, buona giornata. Cambiamo decisamente pagina e parliamo d'amore. L'amore fra due persone, lo sappiamo, no? Può nascere in mille modi, può essere un colpo di fulmine oppure crescere lentamente, piano piano, tutto però nella massima spontaneità, almeno fino ad oggi abbiamo creduto così. Invece qualche cosa sta cambiando. Nuovi studi ci dicono che in alcuni casi, per avere l'amore vero e duraturo, Cupido si debba affidare alla chimica. Ma non lo so, la cosa mi lascia un po' perplessa. Per capirne di più e per commentare questa notizia, ho chiesto aiuto al professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, con cui ogni settimana commentiamo una notizia che ha fatto scalpore. Professor Remuzzi, buongiorno. Buongiorno, guardi, la notizia viene da un punto di vista che è pubblicato su Nature, un giornale molto importante. L'autore di questo punto di vista è Larry Young, che è un professore di neurologia di Emory University negli Stati Uniti. Lui da anni studia certi piccoli roditori e questi roditori hanno un grande interesse per i ricercatori perché hanno una certa propensione alla monogamia, un po' come hanno gli uomini. Il punto di queste ricerche è che se uno infonde artificialmente nel cervello di questi piccoli roditori un ormone, questo ormone si chiama ossitocina, sì, ed è un ormone che fa nel cervello un pochino quello che fanno la nicotina e la cocaina, per esempio un senso di euforia dato da certe droghe, dipende dall'interazione di questo ormone con la dopamina. Sì. E allora quando lui metteva questo ormone nel cervello dei piccoli roditori, loro si innamoravano? Si innamoravano del primo maschio o della prima femmina che passava vicino. E allora questi ricercatori hanno l'idea che l'amore dipende da una catena biochimica di eventi basati fondamentalmente sull'ossitocina e sulla dopamina. Professore, ma passando dal topo innamorato a noi? C'è un'analogia molto importante con l'uomo perché durante maternità e soprattutto vicino al parto il nostro cervello libera ossitocina e quello è quanto rende la mamma molto legata al bambino, succede nell'uomo e succede negli animali e addirittura ci sono degli esperimenti che potrebbero far immaginare che il fascino che suscita il seno sull'uomo dipende dai livelli di ossitocina. Allora l'idea di questo ricercatore è che ci sia una base biochimica, questa non è solo l'idea sua, è l'idea della maggior parte dei neuroscienziati, per l'amore, per le emozioni, per la sessualità. Beh, quello che potrebbe succedere è che un domani noi potremmo creare un farmaco che faccia gli stessi effetti di questi ormoni per cui uno potrebbe innamorarsi della prima persona che gli è vicino. Quindi basterebbe spruzzare un po' di uno spray oppure fare prendere a questa persona una pillolina? Beh, potrebbe essere un po' quello che era l'elisir d'amore, il dottor Dulcamara dell'elisir d'amore di Donizetti, peraltro quella nome Dulcamara deriva da una pianta che si chiama Solanum Dulcamara, è una pianta che ha delle proprietà afrodisiache. Sì, insomma un domani potrebbe succedere, però l'evidenza che sia tutto e solo così nell'uomo non ce l'abbiamo ancora, questo deriva da studi di piccoli roditori che però effettivamente quando infusi con questi ormoni si innamorano della prima persona che gli passa vicino. Innamorano è un termine molto che utilizziamo per gli uomini, non so se possa valere dei roditori, comunque hanno un'attrazione irresistibile per questo partner. Professor Remuzzi, la morale di questa storia? Ma la morale di questa storia è no, non c'è la pillola dell'amore, non c'è lo spray dell'amore ancora, conosciamo però molto di più di come funziona il nostro cervello, conosciamo molto di più di come sono regolate le nostre emozioni e conoscere è sempre molto bello. Professor Remuzzi, buona giornata, buongiorno e buon amore. Grazie a voi, buona giornata. E con questo tocco d'amore, direi, chiudiamo l'appuntamento di oggi. Io vi auguro una buona giornata. A domani, come sempre, io vi aspetto.